I'd never seen a man so broken up. And... Ragazzi, mi sono fumato il radio. Signore e signori, è con immenso piacere e un pizzico di ardire che annunciamo l'inizio delle trasmissioni. Radio Catrame 19, la radio inusuale. Allora, vediamo l'ennesima mail. Questa che me la manda? Questa me la manda la mia cara amica Liv. Che ci sta scritto in questa mail? Questa mattina, al di sopra del vagonaccio, saranno le 11. Circa le 11. Ah, Liv mi scrive. Mi scrive di Mossi, del nostro caro ministro, e delle novità che ci stanno. Novità ce ne stanno poche. Allora, via Liv, io ti rispondo. Va bene, Liv. Allora, ho letto di Mussi. Liv, grazie dell'informazione, stavo nell'aria. Ma comunque, Maremma Budellona, lo sai che si fa stasera? Si potrebbe anche raccontare di una generazione, con poche frasi carine, divergenci. Divergenci. Divergenci. Divergenci. Divergenci. Divergenci, curiosi. Con me stessa chi? Che ne dici? Reginella, quanti passi devo fare per andare al tuo castello? Con la punta dell'ombrello, con la punta dell'anello. Sbagliato? Regina re... Ragazzi, non la sapete voi? Io no. Dai. Io no. Regina re... Ma dove siete stati? In Toscana. Ma voi sì. da piccoli non lo facevate questa cosa? Regina Reginella. Regina Reginella, no. Quanti passi devo fare? Io facevo le gare di sputi. Le gare di sputi. Comunque, che cosa si faceva da giovani? Da giovani. Quando eravamo giovani. Questa puntata è sui giovani degli anni 70/80. Slash. E perché in quegli anni, e non adesso... Quegli anni sì che erano web 2.0, che si stava tutti insieme a condividere. Adesso abbiamo bisogno di escamotage tecnici. Prima ti buttavi per strada e condividevi, vai, 2.0, 2.0, bordelli, così. Da cosa ci arriva il tema della serata? Dal nostro Calzolz, che ci ha ispirato. Ma prima, visto che siamo gentili, facciamo... un bel saluto, buonasera a tutti, torno dopo una puntata di vacanze e io sono Liv, accanto a me c'è il mitico Calzolai, sociologo di Parla Come Scrivi, di Parla Come Scrivi, Parla Come Scrivi, e il nostro vero pilastro, e non dico pilastro, lo dico in senso figurato, un bel pilastrone che non sei altro, Strelli. Eccomi qua, che avete già sentito prima nel pomeriggio in una solitaria. In solitaria. Quindi. Mi piacciono le solitarie. Le solitarie, pilastrone, ti piacciono le solitarie, sì, lo so, invece ti tocca condividere questa sera. Va adesso bene. Poi in puntata e forse anche dopo, ma sono fatti nostri. Benvenuti alla puntata numero 2 di Parla Come Scrivi. Oggi è giovedì 25 ottobre, sono le 22:12, stando a fidarsi. Stando all'orologio del nostro Mac. E voi siete arrivati su questa puntata che parte da un piccolo Omar Cord per poi sprofondare nelle veline. Cazzo? Calzo? Le veline. Ragazzi, Sly? Le veline. Si torna, eh? Calzolai? Ma cos'è che mi dovevi dire oggi poi alla fine? Quella cosa della descrizione della generazione. Che cos'era? Noi che... È uno stile, eh? È uno stile alla Gianni Brera. Sì, noi. Che ci divertivamo anche facendo strega comanda color. Noi che le femmine ci obbligavano a giocare a regina, reginella o a campana. Noi che facevamo palla avvelenata. Noi che giocavamo regolare a ruba bandiera. Noi che non mancava neanche di rifare baciare il lettere al testamento. Noi che ci sentivamo ricchi se avevamo Parco della Vittoria e Viale dei Giardini. Ragazzi, noi certo, noi. Poi dice, ma ragazzi, siamo noi questi? Cioè, ti ho descritto, ci siamo descritti. Io ci sono. Io in queste cosine ci sono, sono degli anni un po' dopo voi, ma queste cose nei vabbè, miei anni... Vabbè, io sono del 70, te sei del 77, te sei del... 74. Tanto per dircele chiare, che no? Che cazzo, si sa che sei più vecchio, non te che okay. Di... voglio dire... Però io volevo dire un'altra cosa. Dimmi. Che sarà messi male, cioè che giovedì di merda ci sapeva. No, fanno ragazzi, schifo. Su, non è vero che facevano schifo. Non, erano. Tu ne può fare uno. Era una mezz'oretta. Tu basta. No. Allora, scusami, strega comanda color. Colori. Color. Ma come funziona? Che te cioè, dici? Strega comanda color giallo. E tutti quanti devono toccare un colore, una cosa gialla. Giallo. E tutti quanti a colare cose. Strega comanda color rosso e tutti quanti a toccare una cosa rossa. Che non era una cosa poi così. Però era. Te strenni. Innanzitutto facevi i movimenti. Sulla cosa rossa. Strenni braccia sulla bandiera di Partito Comunista. La braccia. La cosa rossa. No, all'epoca di 3 anni strenni facevano queste cose con caccia. Poi ho a giocare a regina reginella. No, a strega no, comanda color. La strega a comanda color Strennik usava al lancio del colore rosso partire verso la casa del popolo all'età di 3 anni. Che anno era? 73. Il 73. Non c'erano già più le case del popolo in quegli anni. Non c'era la casa del popolo. No, in queste frasi. Allora, in queste frasi. In queste frasi. Ragazzi, io ribadisco cose. I giovani erano veramente giusti. Madonna, ma... Scusami, poveri proprio. Ma pensa adesso il bambino che sta con il, come si chiama, il Wii di Nintendo a smanettare a casa. Meglio fare strega comanda color. Boh, è anche questo. Sì, tutte e due. Ma allora mo ti compro il Wii. Ma anche se tutta una giornata a guardare, cioè, strega comanda color, ragazzi, tu ci giochi mezz'ora, è tanto. Sì, ma infatti queste cose qua le fai tutte insieme, perché dopo 10 minuti ti rompi i coglioni. Puoi fare Gina Reginella, puoi fare campana, puoi fare poi davvero la tua bandiera. Sono tutte cose che facevi. Io Regina Reginella non mi ho fatto. Ma tu allora, lo sai cos'è, come si faceva Regina Reginella? Ma che ne so chi era Regina Reginella? Dovevi dire la Regina Reginella, quanti fa. Infatti lo diceva qua, noi che le femmine ci obbligavano. Dicevi la filastrocca, quanti passi devo fare? E chi faceva la regina? Diceva. Fai 3 passi da elefante e tu devi fare i passi da oppure 3 passi da cimice, li facevi 3 passi da lupo, questa era... E chi arrivava primo? Alla regina all'elemento. Bel giochino questo. Io cercherei di rispondere ad un interrogativo posto in queste frasi inviate a Liv questa mattina. Cioè, è un grande interrogativo. Che cosa? E scenderei nella mail ricevuta da Liv questa mattina relativamente a chi è il più forte tra due protagonisti allora, storici questo di cartoni animati. Noi che litigavamo su chi fosse più forte tra Goldrake e Mazinga. Questa è la grande domanda. Vabbè, oggi c'è Di Pietro e Mastella. Allora, io ho avuto... il paragone, sì, oggi sì. La comparazione c'è. Ma... Io... Io voto 3-2. Sì. Guarda, io ho avuto i fratelli grandi maschietti, quindi vedevo i cartoni animati loro, per questo conosco bene, oltre a vedere Candy. Per me è Mazinga nel cuore. Mazinga, no. Io nel cuore ho Mazinga, poi vedete voi. Per me è Mazinghi. Ma dai, ragazzi. Il Mazinghi, ragazzi, è un pugile di Pontedera che è stato campione del mondo, ragazzi. Forte il Mazinghi. Era più forte Goldrake tra i due. Cioè, diciamocela chiaramente, ma Goldrake a Mazinga gli faceva letteralmente il culo. No. Noi che giocavamo a fiori, frutta e città, e la città con la D era sempre Domodossola. Noi che ci mancavano sempre 4 figurine per finire l'album Panini. Noi che le cassette se le mangiava il mangianastri e ci toccava riavvolgere il nastro con la penna. Noi che guardavamo in TV solo i cartoni animati. Noi che avevamo i cartoni animati davvero belli. Mangi's blame game. Yeah. ascoltando Radio Catrame 19, la radio inusuale. Rallentamento dopo i Mangis che con Blame Game, giochi da vergogna, così l'abbiamo un po' presi in giro questi giochi, superati, chissà, superati perché molti di questi giochi si facevano all'aria aperta. Yes! Noi che si faceva questi giochi anche stupidelli, però. Noi che non avevamo il cellulare per andare a parlare in privato, andavamo sul terrazzo. Sì. Noi che i messaggini... Se c'avevi il telefono. Il terrazzo. Giusto. Noi che i messaggini li scrivevamo sui pezzetti di carta per passarli poi al compagno. Noi che si andava in cabina a telefonare col gettone. E che puzzavano da morire le cabine, ragazzi. Cioè, io sono anche per le cose pubbliche, ma quelle cabine lì, quelle specialmente dentro bar grigie. Sapete, presente le grigie bulgare lì? Col fumo che stava sempre nella sala del biliardo, che doveva telefonare delle cose. Pazze, però c'era una letteratura lì dentro, delle scritture lì dentro. Sì. Che poi si sono trasferite purtroppo quando sono sparite le cabine nell'autogrill. Ma povero che signore, le puliscono. Noi. Un puliter sta roba lì, no? Noi! Noi che facevamo il gioco della bottiglia tutti seduti per terra. Mi sono imbottigliata la bottiglia. Perché ho guardato Strennic e mi sono imbottigliato? Perché Strennic non ha mai fatto il gioco della bottiglia. Io in realtà avrei sempre voluto farlo, ma che ci voleva la bottiglia vuota. Allora qualcuno la bottiglia doveva bere e m'offrivo sempre io, facevo questo enorme sacrificio. La bevevo quasi tutta io, cioè avevo 13-14 anni e naturalmente ero ubriaco mezzo. Quando loro facevano giocare la bottiglia io stavo a barcollà per la stanza a fare lo stupido urlando e non baciavo mai nessuno, però ci pigliavo delle gatte, ragazzi. Bellissimo. Eccoti, tu eri questo sicuramente. Sì. Noi che suonavamo i campanelli e poi scappavamo. Sì, no, questo mi fa questo non l'ho mai fatto. Ma senti, questa se non sei tu. Noi che me lo sono. Ah, che... noi che nelle foto delle gite facevamo le corna ed eravamo sempre sorridenti. Berlusconi! Questo è Berlusconi! Senti, noi che il bagno si poteva fare solo dopo le 4, soprattutto se avevi mangiato la banana che era pesante da digerire. Esatto, questo è vero. Noi che le ricerche le facevamo in biblioteca, mica su Google. Ecco, io volevo introdurre questa parte un po' anche. Sì, da sociologo. Noi ci sei il sociologo, ragazzi, e calzolai sociologo, cazzo. Così. Noi che siamo andati a vedere le donnine nude in biblioteca. E ora questi giovani vanno su Google per vedere le donnine nude. Bellissimo, però è troppo più comodo. È veramente cambiato il mondo. Ma meglio. A questo punto in meglio. Allora, questo noi io non lo so. Non è mio, ma se vi do il là, scommetto che voi due iniziate a cantare. Sì. Noi che però, cioè noi che internet non esisteva, noi che però sappiamo a memoria Zoff, Gentile, sì, Cabrini, Oriani, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni, Graziani. Allenatore? Enzo Berzot. Enzo Berzot. E si è comportato anche da Max, al solito ha fatto un casino incredibile, però da noi stasera si sta comportando veramente bene il nostro Enzo, che ha anche un blog, ensofonico.spinder.com. Ora beve l'acqua, E noi? Noi che facciamo? Noi che disastro di Chernobyl vuol dire che non potevamo bere il latte la mattina. Il latte la mattina. Le verdure si potevano mangiare. L'insalata. E comunque, io vi lascio con l'ultimo noi, che secondo me è quello che mi inquieta di più in questa giornata. Cioè? Noi che a scuola ci andavamo da soli e tornavamo da soli. Questo è importante. Che sembra una cosa normale. Importante. E invece? No, è importante. Io se ripenso a una cosa, io ripenso che 5 anni di liceo, io ho fatto tutti e 5 anni l'autostop per tornare via. Cioè, da 14 a 19 anni ho fatto l'autostop all'una di pomeriggio, cioè non di notte. Però mi sembrava una cosa normalissima. Cioè, anche mio babbo e la mia mamma non è che mi dicevano che fai l'autostop. Io salivo su macchine di persone che non conoscevo assolutamente. Cioè, avevo 14 anni, ero un cittino. Cettino. Ma è successo... Non da solo, insieme sempre a una mia amica. Sempre fatto ma è successo un... quella volta lì che quella fusto pista. Non mi ho più scritto. Insomma, noi fuori ci andavamo. Ci andavamo, facevamo sti giochini stronzi, anche divertenti, che facevano bene ai tendini e alle caviglie. Però eravamo fuori. Sì. Nel verde, magari, se c'era il verde. Invece adesso, visto che questo noi non c'è più, se manca una cosa subentra l'altra. Non c'è più questo noi e subentra una cosa che è molto da terzo millennio, una malattia. Una malattia? Sì, un disturbo del comportamento che hanno chiamato in questo modo NDD. NDD. NDD. Che sta per Nature Deficit Disorder. Questa cosa è stata teorizzata da un guru che si chiama Richard Love, autore di The Last Child in the Wood, Saving Our Children from Nature Deficit Disorder. L'ultimo ragazzo nei boschi? E lui dice, in soldoni, che adesso i bambini preferiscono la TV ai parchi, hanno paura di giocare all'aperto e si ammalano di obesità e di disturbi comportamentali. E lui teorizza in modo scientifico, anche se uno dice, vabbè, ma che non lo so che era meglio stare che i bambini stanno fuori all'aperto, ma lui fa un discorso molto più serio del mancato contatto con la natura, perché il rapporto con la natura comunque ti fa crescere, ti pone di fronte a una cosa che tu non puoi modificare così e quindi tu alla fine ti devi relazionare. E molti di questi disturbi del terzo millennio dei bambini, come l'iperattività che va di moda tantissimo, adesso pare che un bambino su due è tutti iperattivi, cioè quello che era vivace una volta, sono iperattivi, possa derivare da questo. E anche addirittura l'autismo, anche l'obesità è chiaro, perché ovviamente prima stavi fuori, nuovi, stai a casa a guardare la TV, sei obeso. Certo. Ma sull'autismo e sulla liberattività, questo potrebbe essere un'altra cosa. Ed è piuttosto triste questa cosa, che noi rammentiamo qui Cabrini, la casa della prateria, Reginella. Cabrini. E quindi che cos'è? Magari fra 20 anni un bambino dice, noi che stavamo a casa a giocare con i Pokémon, tutte cose, oggetti sì, anche loro cartoni animati, ma che fanno? Magari vanno il lunedì in palestra, il martedì in piscina, il mercoledì rientro di musica, e poi alla fine stai là, o no? È la divisione del tempo anche per i bambini, forse, ma io vado in un discorso un po' troppo complicato. La divisione del tempo, il tempo di lavoro, il tempo di vita. I bambini sembrano già dei lavoratori da piccoli, devono fare 50.000 cose. Poi se le fanno tante domande. E non devono decidere loro molte volte. Cioè, il fatto è trovare il giusto mezzo fra far decidere il giusto mezzo. Un'intervista giusto tua. Mezzo, siamo al giusto mezzo, ragazzi. Giusto mezzo, infatti. Laurea mediocritas. I ragazzi poi con i mezzi di comunicazione sono diventati realmente la loro estensione del corpo, che non è più natura ma è questa. Tanto che Richard Law dice che intervistando dei ragazzi prima di scrivere Childhood's Future, un ragazzo gli ha detto che lo stupì particolarmente perché preferiva giocare a casa perché sapeva dove si trovavano tutte le prese elettriche. E quindi era connesso veramente al presente e al futuro in tempo reale. E quindi lui sostiene che manca la cooperatività non facendo queste cose. E allora, guarda un po', senza saperlo, ritorno alla mia introduzione, prima che dicevo che da piccoli noi eravamo veramente molto Gabbro 2.0 e adesso il 2.0 si trova invece nella rete. Sì. Cosa che diceva anche stamattina David Wendenberg sul nuovo Al Sole 24 Ore. Ragazzi, qui si sta sulla notizia freschissima. Si sta sulla notizia. Questa mattina c'era un bell'inserto di Nova che è sempre molto bello, sempre da seguire. Parlava del social network, anche di Twitter. Mai come le figurine del manifesto. Mai come le figurine. E dice, parlava di social network anche. E anche di Twitter, che diceva sì, ma Twitter ok, come strumentino poi a che ti serve? Ti serve per capire sempre quello che fai in qualsiasi momento, ma non lo prendiamo per quello che è, cioè uno strumento che un instant messaging diffuso, connesso. Ma perché, visto che il tuo network, i tuoi amici sono comunque in questo mondo parallelo, in questa rete, di fatto è un contatto, è come in un certo senso telefonare o guardarsi per strada. Certo. Quindi io la chiamo un'ansia emozionale. Un'ansia emozionale. Sì, perché naturalmente non ci sono i fatti, ci sono i microfatti che per le persone e per gli amici acquisiscono delle connotazioni particolari, ma non per tutti. Abituiamoci a questi pubblici ristretti, abituiamoci a ringraziarli, questi pubblici ristretti, come quello che ci sta. La coda lunga facciamo una della puntata comunicazione. Sì, sì, il nostro amico Sandrini, il sociologo numero 2, ci aveva invitato già a parlare della coda lunga. La coda lunga, long tail. Frammenti. Ma andremo troppo nel tecnico. Io direi che dopo questa puntatina sui bambini che non vedono più il fuori e il verde, Hans, il piccolo Hans, teniamocelo caro Hans, dai che finora si è comportato abbastanza bene, potrebbe mandarci anche una canzone. Che dice Hans? Te lo vedi abbastanza convinto Hans stasera? Hans? No, non risponde. Sitz! Eccolo. No, Hans, vieni. No, dai, non lo prende in giro, sì. Oh, poi, dai, si fa per scherzare, Hans, dai. Vieni, Hans. Ridacchia. Lascialo perdere. Hans, abbiamo detto anche l'URL del tuo blog, per cui se qualcuno vorrà leggerlo, anche se mi tratti male, l'ho letto stamattina e mi tratti male nel tuo blog. Però invece non ci tratti male noi e i nostri. A me no, mai mi tratta male. Ci credo. Il nostro Hans ci mette da Netblock volume 5. Netblock volume 5. La minaccia ai piedi di Golia, da blocksonic.com, Misery. Bobby. Sara. Non lo prende in giro Hans, dai, che poi si incazza. Now the sun gets down, try to hear your voice. Undo it, talk to me but don't say a word. Stay here. When you cry, your voice is this. una cosa di meta radio, vi sveliamo un backstage. Per quello che vale, il nostro piccolo parla come scrivi, però vi facciamo vedere l'ossatura. Altro su Radio Catrame 19. Questo ed altro su Radio Catrame 19. Ve lo svelo perché il nostro pubblico se lo merita, sia quello del podcast che ci ascolterà nei prossimi secoli, sia quelli che ci stanno ascoltando in diretta adesso, e ci sono, li ringraziamo. Ve lo meritate, vi svelo che cosa quel cinghiale del sociologo, per buttarla sul sensazionale, sul sensazionalismo, mi aveva proposto come gancio. Dovete sapere che noi che facciamo radio così nelle nostre case, chiamiamo ganci, anche perché l'abbiamo sentito nelle trasmissioni vere e proprie, quelli che sono bravi e lo fanno per lavoro, quegli agganci semantici tra un argomento e un altro, quelle transizioni che esistono all'interno del discorso, e dovrebbe essere abbastanza armonico all'interno di una trasmissione come anche la nostra. Uno dei ganci che mi ha proposto 3 minuti fa Calzolai, riattaccandosi al discorso mio, dove si agganciava al discorso mio, che io ho fatto l'autostop per 5 anni quando tornavo dal liceo, e lui ha detto il gancio, ora lo faccio leggere il gancio lì. Il gancio era questo, ecco, il gancio proposto era questo. Raccontiamo la storia di te che lo pigli in culo da uno stoppista all'età di 14 anni. Capito? Su un fogliolino qua sopra si racconta questa storia che lo pigli in culo all'età di 14 anni. E io dovevo sono fingere anche questa cosa qua. E si doveva iniziare un discorso sul sensazionalismo. Sì, sul sensazionalismo, per poi agganciarci a che cosa? Alla televisione. Eh sì, il sensazionalismo. Agli scandali. E volevamo dire, che cosa volevamo dire, Strelli? Volevamo dire che comunque ci agganciamo sempre a... Televisione scandalo, anche noi vogliamo fare qualche televisione scandalo ogni tanto. Scandalizziamo, ci raccontiamo queste storielline che fanno aumentare un po' l'audience. Come... A questo siamo, ragazzi. A questo siamo arrivati. Come queste storie di te che lo vigli dall'autostoppista. Per fare che cosa? Fare il gancio direttamente con la televisione di oggi e con un artefatto della televisione di oggi, che sono le veline. Le veline, ragazzi, si parla di veline. Incredibile, non ci avrei mai creduto in vita mia. Le veline. E così in Italia, dopo Calimero con il guscio rotto, vennero le veline a buco ritto. Sono ormai già 20 anni che queste creaturine catodiche riempono i teleschermi del dopocena con i loro balletti. I balletti delle veline, ritmati al suono di qualche successo di stagione. E visto che la selezione naturale al loro sorriso hanno saputo evolversi anche in letterine, schedine, meteorine, ine varie, insomma, pangoline. Compito primo delle veline è naturalmente garantire l'innalzamento dell'auditor, con il risultato che spesso fanno alzare anche qualcos'altro con le loro fresche e seducenti movenze che glorificano la perfezione di un fisico tornito e muscoloso. Il volto delle veline è carino, da farci tante carezzine, ed è dotato di un sorriso tanto prestampato quanto la scheda madre di un registratore di cassa. Care veline, prendetevi l'etere e il mio dopo cena, prendetevi il bomber di serie A e il tavolo in discoteca, ma non vi venga l'idea di offendere la mia intelligenza, perché quella non ve la do qualunque morbida e confortante rotondità voi abbiate da offrirmi. Questo avevo a cuore di dirvelo da molto, poi guadagnate quanto vi pare e vi danno, perché se li dessero a me, li piglierei anche io tutti quei quattrini. Sfogliate anche tutte le pagine del calendario, le veline spesso diventano partecipanti di uno dei tanti reality, e poi fatalmente la polvere di stelle finisce di farle brillare. Non so perché, ma a me le veline a fine carriera mi fanno danno sempre un leggero senso di tristezza, per davvero. Tobias Jones, Naked Ambition, la nuda ambizione. Quattro pagine di analisi ricche di esempi sul modo in cui i nostri media rappresentano le donne. Nel patetico campionario ci sono i manifesti pubblicitari e le ragazze della televisione, con un'ipotesi, che la quantità di vallettume sia direttamente proporzionale alla penura di donne nelle istituzioni politiche, alla scarsità di servizi sociali. Lo stupore del Financial Times si capisce e si spiega anche guardando la BBC. Una donna in mutande accanto a un uomo in giacca e cravatta, come succede a noi, è impensabile. Del resto, basterebbe solo confrontare i prodotti seriali della TV anglosassone con i nostri. Sex and the City, Desperate Housewives, Ugly Betty, donne vincenti, sofisticate, disinibite, aperti a ogni esperienza in cerca di un riscatto professionale, sempre forti in una relazione al femminile che traduce il linguaggio comune e il pensiero della gente. Noi, alle prese con commesse, poliziotte, avvocatesse che appena si dedicano al lavoro con impegno, magari trascurando la cura della famiglia, o hanno figli che scappano, o madri che muoiono, o mariti che tradiscono. E nella fiction italiana le donne almeno lavorano, escono di casa, nella realtà succede sempre meno. Avete appena ascoltato, sono due estratti, quelli che avete appena ascoltato sono due estratti da rispettivamente Circo Italia, un blog che noi abbiamo già letto nella puntata scorsa di Parla Come Scrivi, in un post del mercoledì 24 ottobre che si chiama Le Velline, un post di ieri, quindi molto molto fresco. Cogliamo l'occasione per salutarlo, Ettori. Salutiamo loro, lui come tutti gli web ascoltatori che adesso sono in diretta. Il secondo pezzo invece me l'ha letto Liv, mentre il primo me l'ha letto il sociologo Calzolai, e è estratto da Norma Rangeri, Chi l'ha vista? Tutto il peggio della TV, da Berlusconi a Prodi o viceversa, edito da Rizzoli e uscito da pochi giorni, credo. Sì, da pochi giorni, da poco, della collana 24/7. Allora Calzo, le nostre avvocatesse che se poco poco cominciano a lavorare. In effetti se tu guardi la TV e vedi, quindi noi siamo un popolo o di veline tutte belle, eccetera, tranquille, disinibite, oppure sempre poliziotte, avvocatesse, che però per lavorare devono pagare il pegno della sofferenza. Perché in Italia la famiglia viene prima di tutto. E uno se non già la famiglia è una disgraziata. Il passaggio. Che, però c'è una dicotomia che io non so spiegare a livello sociale, cazzo, perché se fai la velina puttana, la velina comunque che sta così, cioè disinibita. Disinibita in Sardegna, così va bene. A rivista. Va bene. A rivista, diciamo, a rivista, quindi se c'hai 70 fidanzati, non fa niente, embriache, va bene, però perché? Perché sì. Se invece vuoi fare l'avvocatessa, devi essere nella fiction punita. E cioè, ti scappa il marito, ti si droga il figlio, cioè se fai l'avvocatessa si droga il nome, ti si droga, cioè tutte queste cose, perché dicono no, vuoi lavorare, vuoi fare la donna in carriera e la vita ti punisce. Se vuoi fare la battuta, di velina stai tranquilla. Ma sarai qui sociologo, come mai? Biblica. Ma io non lo so veramente. Io cercavo di cogliere piuttosto da questa riflessione relativamente alle veline del nostro caro Ettore questa evoluzione, e chi lo sa che con questo risponde anche alla domanda posta da Liv, questa evoluzione che va da veline, letterine, schedine, meteorine, cioè, ma la prossima volta come si chiameranno queste? Pangoline, io l'avevo detto prima. Pangoline. Che sono pangoline? Pangoline sono... Il pangolino è un animale buffissimo. E lo rammentava oggi in un post che ho letto di Suzuki Maruti, che è un blogger che ho scoperto da un po' di tempo, che lo seguivo e mi piaceva. E parlava appunto di pangoline. Però lui parlava, faceva una diciamo, si criticava un po' quei blogger di Splinter, tutto stelline, gattini, meteori, che in questi giorni sembravano invece avessero riscoperto una coscienza politica profonda per quel progetto, che è una merdata naturalmente, che hanno presentato, è presentato il ministro Fioroni, la Internet Tax, l'istituzione di questo rock, di questo registro, di chiunque produca contenuti editoriali. No, Fioroni, Gentiloni. Fioroni. Gentiloni, telecomunicazioni. Che poi ha detto, mi sono sbagliato, per il blog non lo facciamo più. No. Vabbè, io... Ministri. Fioroni, il toto ministro. Fioroni rovina la... Fioroni si occupa dell'istruzione delle primaria. Allora, Gentiloni? Gentiloni. Quello che Gentiloni. Chi è quello che va a giocare a tennis con Ermete, come ribadisce ormai? Beppe Grillo, te sei un comico. Gentiloni. Le battute ogni tanto vanno rinfrescate. Non lo so. Cioè, è vero, è bravo Beppe Grillo, come comico, è bravissimo, però la dici... E poi non sono rimasta mai Gentiloni, perché sembrava uno che ci capiva. Cioè, a parte che, vabbè, dopo Gaspar ci capiscono tutti di comunicazione, questo è facile. Però mi sembrava uno... Però ha detto subito lui, guardate che mi sono sbagliato, non ve lo faccio i job per il blog, perché in effetti, ma che stiamo a fare? Sì, come? vabbè. Ma ne, però, aveva fatto un'insinuazione a questo proposito qui. Insinuo? Calzolai due sere fa, per esempio, aveva detto: ma te ci credi veramente che questa cosa sia stata dettata dall'inesperienza o invece ci hanno provato? È stata una lunga discussione. Sì. Fu una bella domanda quella posta da Calzolai, questo giovane sociologo che tutti voi, cari web radio, che si dissocia, a volte si dissocia anche da se stesso. Sì, ci stiamo dissociando e così siamo qua, chissà quale dove siamo. Io credo sul vagonaccio, ma siamo davvero sul vagonaccio. Forse il vagonaccio cambierà sedile, ma che ne sai? sì, forse, no, ma chi sei, forse il vagonaccio cambia. Studi più grandi per il vagonaccio. Studi più grandi, però non si sa. Stiamo facendo accordi con il nostro, insomma, amministrazione. No, io voglio stare qua. Aspetta, se andiamo in uno studio più grande, scusate i web ascoltatori, se ascoltate queste. Stasera è tutto metaradio. Tutto di metaradica. Io però della nuova sede di Radio 419 voglio mettere l'insegna fuori. Luminescente. Radio, parlo come scrivo Radio Catrame? No, Radio Catrame. Il campanello scrivici Calzolai. Poi sapete che se veniste mai nei nostri studi, noi vi inviteremmo volentieri a Teramo nei nostri studi. Per entrare, quando suonate al campanello, poi faremmo sapere l'indirizzo preciso, però dovete dire una password. Ecco, la password ai nostri web ascoltatori gliela diciamo. Poi sapete dove venire a Teramo, però potete provare a tutte le case a suonare i campanelli a dire Enter 77. Se qualcuno vi apre, dove avete preso parecchie secchiate di piscio, siamo noi e venite qui a Parla Come Scrivi in diretta. Come in diretta adesso vi mandiamo la gigantesca scritta COP. Sì. Io vorrei, prima di mandare questa gigantesca scritta, vorrei svelare un altro segreto. Sì, addio. Un altro segreto della trasmissione. Altarini, vai Altarini. Ganci, Altarini a manetta. La radio, questa è Meta Radio, lo sappiamo. Ecco, la password per entrare a Radio Catrame è questa qua. Ecco, io se non sapevo questa password qua dentro, non ci sarei mai potuto entrare. Quando entro qua, strani colleghi mi chiedono la password, e io rispondo, Enter 77. E dentro, Backstage. Anche questo è backstage, sì. On air. Le luci della centrale elettrica, la gigantesca scritta COP su Radio Catrame 19. Vai, Enz. Chiudono sugli occhi spenti, con gli estintori, sui conti correnti, coi cognomi finti. Sarà la prima volta che non andrò a votare, sarà la prima volta che non andrò a puttane. Con un alto tremendo ti ho sussurrato all'orecchio, buongiorno sopra, né turbini sopra, nottambuli svelta, la gigantesca scritta COP, la gigantesca scritta COP. E Gigi c'è qui, non ci sono più, Gigi c'è qui, non ci sono più, Gigi c'è qui, non ci sono più, Gigi c'è qui, non ci sono più da bel po'. Per evitarci hanno fatto feriti. I sistemi d'allarme si sono sgolati, non ci hanno sentiti. Su Radio Catrame 19. Direttamente siamo sempre sulla notizia. Mastorace ce la fa fino a tardi? La senatrice a vita Rita Levi Montalcini, nella estenuante maratona Palazzo Madama, non perde il suo proverbiale senso humor. Tant'è che in una pausa dei lavori, ricordandoci delle ironie del leader della destra, Francesco Storace, ha telefonato ad un deputato amico del centrodestra per chiedergli: ma il povero Storace ce la farà a votare fino a notte fonda? Dimmelo, perché se si sente in difficoltà gli presto volentieri una stampella. Niente, mentre in diretta la Radio Catrame, il governo inciampa più volte, anche adesso in questo momento, vanno avanti a votare oltranza, inciampa, la Montalcini presta la sua stampella, che sarà veramente, non sarà Carrie Bradshaw di Sex and the City, ma è una che comunque le sue cose alla fine le sa e le fa. Cioè, God bless America, no, God save the Queen, Montalcini save Italy, cioè a sto punto qui siamo uguali. Vabbè, ci sono donne, insomma. Ci sono donne di tutti i tipi, di tutti le donne. Ci sono donne. Ragazzi, si è finito sulle donne. Si è finito sulle donne anche a questo giro. Ragazzi, ma volevo dire, la prossima volta di che si ragiona? No, di che allora, si parla? Ci siamo fissati che bisogna fare meta radio, quindi dovete sentire come vengono fuori, come non vengono fuori i nostri palinzeri, le nostre strutture, la struttura delle nostre trasmissioni, per cui vorremmo in diretta provare questo esperimento di meta radio. Meta radio, sì. Quindi parlare tranquillamente, allora, come se... Però recitando. Recitando. È un finto vero che è troppo vero perché è falso. Però io faccio la spiegazione iniziale per... C'è una cosa che ha scritto Enz, guarda, madonna, Enz sei forte. Insomma, ragioniamo, facciamola sta cosa. Sì. Facciamola sta cosa. Allora, la prossima volta di che si ragiona, ragazzi? A parte che noi, tu sai, siamo sempre sulla notizia, quindi fra una settimana cosa potrebbe succedere? Allora, potrebbe non esserci più un governo, quindi magari... E quello è un casino. Si parlerà di che si parlerà? Magari si di un governo di transizione. Si parlare delle volte che si parla, delle cose che si diranno la volta dopo. Ragazzi, state andando di fuori di cervello. Allora, fra una settimana innanzitutto si può iniziare volta. Così, sempre con un noi. Noi che il primo novembre era... ogni santi e adesso invece Halloween, quindi iniziate anche con questo noi che fare. Ci siamo americanizzati, anche perché a novembre i primi giorni, a parte che non è più tutti santi ma è Halloween perché ci siamo globalizzati, ma a novembre arriva un nuovo presidente. Chi è il nuovo presidente? Gli USA, comincia, come si chiama? Con il giorno dell'oca, la votazione dell'oca, com'è quella cosa? Allora, la prossima puntata si fa questa qua. E qui facciamo Toto, che ne so, Toto Obama, Toto Hillary, Toto... Bisogna agganciarci però anche degli argomenti più... più malati, perché così si sembra troppo ansa. Io penso siamo un po' ansa, sì. Sì. No, è giusta la parte di stare sull'evento contemporaneo, però secondo me bisogna agganciarci anche delle... Si potrebbe parlare di Brasile. Madonna, te che lo fisso Brasile, e Desi, e Brasile, e quanto mi garbo il Brasile. Oh, ecco, questo sappiate, carissimi web ascoltatori, che è uno dei refrain consueti quando si parla in di qualsiasi argomento, è trasversale qualsiasi però, argomento. Cioè, ma in realtà non si può usare di queste cose. Però, guarda... Ma se sei che mi darati, però... Però, si comincia... Che poi non vi parlate addosso? Allora. No, la signora del piano di sotto, comunque sia, ci ascolta. Vabbè, ci ascoltano anche altre persone. Lo so, ma anche quando si parla tra di noi. Svegliamo gli altarini. Sì, noi si fa la cena prima di Radio Catrame, si parla, già uno arriva con gli appunti, con i libri, che vuole, eccetera, e si mischiano queste cose. Insieme al vino. Si mangia, si beve, si parla, ognuno legge le cose sue, ognuno porta, eccetera. Però che succede? Che ognuno ha le sue fisse. Sì. Canzolai, Brasile. Strelik, morti del matematico napoletano, io, sempre lei. Parliamo tra le coraci. Quindi cioè, sono vabbè, queste guarda, le cose. Facciamo una cosa. Questa puntata dopo Rita Levi di Montalcino, sapete che a noi ci piacciono molto i contrasti. La chiudiamo con la Gregoraci. Mi fate contenta. Senti, si fa praticamente contenta. Mi fate contenta perché sì. Marcello online. Ciao, grande uomo. Ciao. E lui, un ennesimo ascoltatore in diretta. Però non c'è online. Non ci sta ascoltando perché dalle statistiche non sembra. Sta dicendo una bugia, quindi lo possiamo sputtanare. E non lo so che Brasile, no, sputtanare. È arrivato ora. Cioè, già sa tutto nel Brasile. È forte, ragazzi. E allora? Allora, praticamente tu ti sei fatto apposta io parti in solitaria per farti le tue seghe sulla morte del matematico napoletano. Esatto, sì. Adesso fate contenta a me. Però dai sulla Gregoraci. Scusa, mi fa questo spot piccolissimo. Vai, tutto lo importa. Allora, Chino Parti, lo dico adesso che c'è il picco massimo di ascoltatori. vado a sfruttare queste cose qua, ragazzi. Lasciatemi parlare! Dai. Chino Parti diventa non soltanto un monologo mio, ma dalle prossime puntate ci sarà un blogger, uno scrittore, un regista, un disgraziato che passa, qualsiasi persona che parlerà di un film in particolare. Con Skype queste cose si possono fare, ho già cominciato a interpellare le persone, quindi si possono fare. Chiusa la parentesi. Un esperimento di meta radio. Si sta sforando. Adesso io cercherò di parlare con Paolo Masselli, raccontando a lui Paolo Masselli. Perché Paolo Masselli, non si possono dire i nomi in radio, sì, ma siamo in meta radio, parla qui su questo mezzo. Questo su Skype ci racconta sul Brasile. Paolo, sto parlando con te. Ragazzi, questa la sentirete poi nelle tesi prossimi 20 e dice quando... Ciao, sono il quarto ascoltatore e mi fa imbarazzare. Paolo Masselli, sto parlando con te. Grande. Uno specchio di Paolo Masselli. Un abbraccio a Paolo Masselli. E a tutti i nostri ascoltatori. Chiaramente nomi e cognomi non si possono fare. No. Anche perché sono tutti nomi inventati. Poi non li conosciamo. Gli altri sappiamo il collegamento al massimo, ma non li conosciamo. Però vi li ringraziamo. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata e dobbiamo chiudere con la contrapposizione con la Montalcini, sempre per le nostre contraddizioni in termini. E chiudiamo con la Gregoraci. Ma veramente allora? Sì. Ma veramente? Sì. Ma perché vogliamo chiudere con lei? Perché l'ha scritto Norma Rangieri e... Se lo scrive Norma Rangieri si può dire. Allora, io non ce l'ho con lei. Con chi? Con la Gregoraci. Ah. Perché come diceva il post delle Medine, fanno bene, ti danno un pacco di soldi, prendi, devi essere a me tutti questi soldi. Cioè, lei fa bene a fare quello che è. Però il concetto che non è giusto, ma te sei nello scandalo di Vallettopoli, ti fai scorrazzare in macchina con le auto blu sottile, c'è un'inchiesta e tutto quanto, invece di ritirarti in una sana vergogna, la televisione ti va contro, cioè, e ti dà fior fiori di incarichi, tanto che lei, a Buona Domenica, ha il suo spazio fisso, è 2 anni che sta là. Lei e la Sara Varone, sai chi è Sara Varone tu? No. Sara Varone è vergogna che la sai nuova chi è, Sara... è la nuova fidanzata dell'ex marito di Sabina Ferilli. È difficile la nuova fidanzata, mamma mia. E anche lei è stata, perché allora il discorso dei famosi funziona così: tu allora sei, anche se sei ex marito o ex moglie, diventi in eredità, quindi ti passa in eredità la famosità. Sì, non sì, è un marito morganato, una moglie morganata. Sapete come viene definito questo fenomeno? Viene definito come network trombereccio. Network trombereccio. E, e soprattutto, triste, se tu sei triste, in questo caso, Sara Varone, questa qui cioè sta con uno che era famoso perché stava con una famosa, quindi quello è per proprietà transitiva di in questo network anche lei. E quindi buona domenica con il mitico autore Cesare Lanza, che ci sarebbe da fare un capitolo solo per lui, ma lasciamo perdere. Cesare Lanza. Lanza. Scrittura, una buona domenica a fare coppia con Sara Varone, quindi la nuova fidanzata dell'ex marito di Sabina Ferilli, e la Gregoraci. Il copione è articolato, attento cazzo. Culo Gregoraci, tette Varone. Una si tira giù la zip della camicetta, l'altra volta le spalle. Finita qua. Madonna mia. È finita qua. Lei, Gregoraci, calabrese di 26 anni, fidanzata del manager di Formula 1 Fabio Briatore, nonché ha annunciato il matrimonio sulle pagine di chi da poco si sposeranno fra pochissimo, e lui nel frattempo ha comprato una sorta di paraisoletta, non mi ricordo dove, nel Salento, ha comprato mezzo Salento. Mi sento male. Creatore, emblema del Don Giovanni che cambia una modella a sera, diventa la protagonista di Scusa di Vallettopoli. I suoi incontri con Sottile, grazie all'intermediazione di Malgioglio, finiscono su tutti i giornali. Una vera fortuna che le porta fama e successo. E se dopo essere passata per i divani della Farnesina esercitava il vallettismo in Rai, dopo aver rivendicato i rapporti con il dottor Sottile alla Farnesina, a Palazzo Chigi e in altri posti, da Corriere della Sera, ottiene un contratto da Canale 5. La Rai salva le apparenze allontanandola e meglio si trafasa di rapporto di buona domenica. E quindi questo mi sembra abbastanza, mi dà molto fastidio, mi dà fastidio. No. A te non ti dà fastidio, a me dà fastidio. Molto fastidio. Bisogna guardare il futuro, e io, questi giovani sono messi male. Questi giovani, che gli si può dire a questi giovani se parlavo di loro? Incazzate. Indirettamente stasera. Incazziamoci, incazzate. Però leggete, non guardate troppo televisione. E no alla Peppe Grillo. Cioè, ecco, io vi do due consigli questa sera. Leggete. Come il Papa. Leggete. E quando tornate a casa date un bacio. Questo è il primo consiglio. Il secondo è quest'altro. Non rompete il network trombereccio. Non lo rompete. Capito? Noi vi salutiamo con un cult della stagione scorsa. Speriamo di vederli dal vivo prima o poi. Liv ne sarebbe contentissima. Popolare. Grande. Lingerie. Da Parla Come Scrivi, puntata numero 2. Strelnik. Liv. E Calzolai. Il sociologo. Vi il saluta. Sociologo di Parla Come. Hans è già ripartito. Facciamo da soli. Lingerie. Popolare. Buonanotte. E grazie a tutti. Enz, non sbaglia all'ultima. Enz, maledetto Enz. Mi accorgo che gradisco la celebrità. Talvolta mi stupisco dei saluti per la strada. Sorrisi ed occhiate, mi volto di là. E provo imbarazzo per la popolarità. Eppure sono popolare, ho una casa popolare, in un quartiere popolare, la mia famiglia popolare, la mia storia popolare, il mio cognome popolare. Io mi sento orso polare in un mondo di zanzare. Pietra, pietra, forbici, pietra, pietra, pietra, forbici, spray, capelli. Uno stile originale, pratico ed imposto la mia tonalità. Per questo mi stupisco di quanto sia normale l'immagine rifletta di un soggetto popolare. Popolare, ho una casa popolare, in un quartiere popolare, la mia famiglia popolare, la mia storia popolare, il mio cognome popolare. Io mi sento orso polare in un mondo di zanzare. Io mi sento orso polare in un mondo di zanzare. Popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare. Radio Catrame 19, la tua web radio inusuale.